Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti, soprattutto a coloro che in questo momento stanno vivendo giornate terribili sotto la neve. Speriamo che il tempo migliori e che magari la neve finalmente cessi la sua caduta. Bene, oggi, cari radioascoltatori, parleremo di un argomento che tocca il vino biologico, perché dopo anni l'Unione Europea ha partorito, secondo me ha partorito un topolino, ma poi sentiremo anche cosa pensano i nostri ospiti, perché molti aspettavano con ansia questo provvedimento per poter scrivere in etichetta vino biologico. Ma cosa ha deciso la Comunità Europea, l'Unione Europea? Ha deciso per una soglia dell'utilizzo di solfiti, per alcuni molto alta e per altri invece va bene così. Ma ci sono anche altri particolari in questo provvedimento che cercheremo così di analizzare, appunto. Allora, io ricordo, chi volesse intervenire, numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Vorrei cominciare con leggere un intervento sul sito Gastronauta, anzi su Facebook Gastronauta, di Francesco Maule, che dice: i livelli di solforosa ammessi faranno sì che per fare un vino biologico si potranno usare additivi e pratiche simili ai vini convenzionali o addirittura industriali. Bene, questo lo pongo in tema di discussione e iniziamo a parlarne con Cristina Micheloni, coordinatrice del comitato scientifico di AIAB, che è l'associazione italiana per l'agricoltura biologica. Buongiorno a Micheloni, buongiorno. Buongiorno a voi. Vorrei avere da lei prima un giudizio su questa delibera, chiamiamola così, dell'Unione Europea. Chiamiamolo regolamento, visto che è tale. E dunque, io dico che comunque è un grande, grande risultato, perché dal 91 che si chiede di definire vino biologico e per 21 anni non è stato possibile. Perché? Perché tutto il resto del mondo enologico sosteneva che tutto il vino è biologico, quindi è già un passo in avanti. Dopodiché sono la prima a dire che di spazio di miglioramento ce n'è tantissimo. Non è il testo che noi avevamo proposto, su cui abbiamo lavorato per molti anni, però consapevole di che l'alternativa era non definire per nulla il vino biologico, ed è l'ultimo prodotto agroalimentare che era rimasto fuori dal regolamento su biologico. Era davvero ridicola la cosa. Noi, la Comunità Europea, ha regolamentato il pesce biologico, le alghe biologiche, un sacco di cose che hanno un impatto sull'agricoltura e sul consumo europeo di gran lunga inferiore. Il vino era rimasto fuori da questa definizione, proprio perché tutto il mondo del vino dice tutto il vino è bio. Diceva, ora ha cambiato, in qualche maniera ha dovuto cambiare idea. Quindi sicuramente c'è spazio di miglioramento, noi avremmo voluto essere un pochetto più ambiziosi, non solo sui solfiti, non è l'unica cosa, però direi che è un buon inizio. Dopodiché, già da domani mattina dobbiamo cominciare a lavorare per migliorarlo. Bene, rimanga con noi. Sentiamo Marco Tebaldi, enologo e fondatore del progetto Free Wine. Buongiorno Tebaldi. Buongiorno Davide, grazie per l'invito. Lei cosa ne pensa di questo livello di solfiti, imposto dall'Unione Europea? Allora, io oggi parlo a nome di un gruppo di produttori che adottano il nostro metodo Free Wine per fare i loro vini. Ne penso che è chiaro che le nuove soglie dei solfiti nei bio suscitino polemiche, non sembrano per niente pensate a tutela della salute dei consumatori, ma piuttosto degli interessi dei produttori del Nord Europa. Questo senza nulla togliere al lavoro della delegazione italiana di cui parlava la dottoressa Micheloni poco fa, che almeno adesso possono combattere questa battaglia dal di dentro, diciamo, no? Allora, secondo me va premessa una cosa importante: fare vino è un mestiere particolare che raramente si fa senza una grande passione, e sinceramente non conosco un produttore che non sia anche un buon consumatore. Quindi è chiaro che a noi preoccupi l'idea che anche un solo consumatore moderato abbia mal di testa bevendo vino, e per questo pensiamo che il nuovo accordo di Bruxelles non sia un grande progresso. Bene, Cristina Micheloni, un'ultima battuta. Lei ha detto vedremo se ci sono margini di miglioramento. Che cosa intendeva dire? Perché il regolamento l'834, che non voglio tediarvi con i numeri dei regolamenti, soprattutto il regolamento europeo viene rivisto ogni 2-3 anni, Quindi l'idea nostra, che abbiamo già sottoposto alla Commissione europea assieme ai colleghi francesi e spagnoli soprattutto, è quella di far partire adesso questo regolamento e, ripeto, va bene così, però entro 2-3 anni avere tutti i dati in mano delle nostre produzioni nazionali, anche quelle che vengono vendute, e qui sottolineo il problema che non è solo dei paesi del nord. Noi italiani, spagnoli, francesi vendiamo anche abbastanza vino bio sfuso che viene imbottigliato nel nord Europa. E quindi su queste produzioni c'è una grossissima battaglia per evitare questa cosa, che comporta anche una necessità ulteriore di solforosa, insomma. Però su tutta questa partita noi stiamo già lavorando per riuscire entro un paio d'anni, 2-3 anni, a portare una revisione, durante il processo di revisione del regolamento, un miglioramento, certo. Ripeto, non solo il tenore di solforosa, sono anche alcuni altri elementi che vorremmo andare o a togliere o a modificare. Sentiamo Marco dalla provincia di Asti, un radioascoltatore. Prego Marco. Buongiorno, io sono un radioascoltatore, sono anche un produttore di vino. Ho iniziato a produrre un vino senza solfiti e dico che è molto difficile, ci vuole molto impegno, però è possibile. Sicuramente produrre un alimento con un basso tenore di antiossidanti o di conservante è qualcosa che dà sicuramente giovamento al consumatore, e quindi ben venga la ricerca, ben venga il lavoro di Free Wine, e spero che la burocrazia riesca ad avere una far chiarezza per quanto riguarda gli aspetti dei contenuti del vino, non solo la solforosa, ma anche tutti gli Grazie. Altri componenti. Grazie a Marco dalla provincia di Asti. Ora sentiamo una produttrice che ultimamente ha avuto grandi successi anche sui media americani, Arianna Occhipinti. Buongiorno Arianna. Buongiorno Davide. Cosa ne pensi di questo ultimo provvedimento dell'Unione Europea sull'uso dei solfiti e anche su altre norme che ha varato per definire un vino biologico? Allora, credo sicuramente che l'abbassamento della soglia, come dire, sia importante, anche se ancora siamo molto lontani dai contenuti che solitamente molte aziende che cercano di produrre a basso impatto ambientale in effetti utilizzano nel vino. Non è stato un grande restringimento della legislazione, secondo me ancora tanti passi devono essere fatti, e soprattutto non si può spiegare il vino di territorio solo attraverso il contenuto della solforosa. Non deve essere questo l'obiettivo. Ovviamente la ricerca è importante, ma un'azienda deve analizzare tutto un intero processo, che vada sicuramente dal vigneto sino anche magari all'aggiunta di solforosa in bottiglia, ma quello non deve essere l'obiettivo per cui un vino deve essere considerato biologico o non biologico dal contenuto dei solfiti. Tra l'altro ho un radioascoltatore che mi scrive sul sito Gastronauta che dice appunto non si parla mai di lieviti. Tu cosa ne pensi di questo? Anche questo forse è importante. Per me l'argomento lievito è fondamentale. Credo che su un'uva buona, che è stata coltivata bene, senza che non ha mai visto sostanze chimiche in vigneto, sicuramente il patrimonio il patrimonio microbiologico è fantastico, ed è quello che ti riuscirà a dare solo i profumi veri del territorio, per cui io sono per l'uso sicuramente di lieviti autoctoni, non vedo l'esigenza di dover selezionare dei lieviti di altre zone e riprodurli nelle nostre fermentazioni, non vedo nemmeno l'esigenza di selezionare gli autoctoni dal vigneto e quindi utilizzare magari dei lieviti autoctoni selezionati e poi messi in vasca, perché comunque ogni annata è diversa, ogni lievito che ha ascoltato, superato un inverno, una primavera, ci darà cose diverse, per cui il rispetto dell'annata e del territorio innanzitutto. Bene, grazie a Arianna Occhipinti dell'azienda agricola, appunto Arianna Occhipinti di Vittoria, Ragusa. Bene, Enzo da Modena, un radioascoltatore, buongiorno Enzo. Buongiorno, senta, io sono stato una cultura del vino, prima facevano la macerazione carbonica che durava 6 mesi, adesso la motivazione qual è di questo solfito, bisolfito che mettono dentro? Ma la motivazione che non ne vale la pena, perché in genere il vino appena appena dura 6 mesi, quei 6 mesi fa bene in tempo a consumarne tutti, però voglio dire la motivazione qual è? Perché devono mettere questo solfite, già ce n'era già del vino stesso, di qualcosa che non andava. La motivazione, potevano fare questa macinazione carbonica. Bene. O quantomeno, non so, perché devono metterlo. Grazie so. Enzo, sentiamo cosa ne pensa Marco Tebaldi di Free Wine, di questo suo intervento. Ma la domanda è: perché mettere solfiti nel vino? Sì, certo. Hanno ovviamente una funzione antimicrobica ed antiossidante, servono sostanzialmente a conservare i vini, e a differenza delle produzioni casalinghe a cui si riferisce probabilmente l'ascoltatore, quando il vino si fa per mestiere e abbiamo ambizione che lo assaggino e lo gustino integro in tutto il mondo, evidentemente il problema conservazione esiste. Bisogna dare giusta misura a questa necessità di conservare il vino, e noi crediamo che la giusta misura sia tranquillamente dalle parti di 2, 3, 4 volte meno questi nuovi limiti di cui stiamo discutendo oggi. Quindi sicuramente la soglia è troppo alta per voi di Free Wine, mi sembra, cioè, lo ha già detto. E quindi se sicuramente... il vino è di qualità buona in origine, come ha detto Lauchi Pinti, con una visione a mio avviso un po' romantica, però mi rendo conto che lei opera in un'azienda molto piccola di carattere estremamente artigianale, e questo è coerente con quello che ha detto, però ripeto, sono necessari perché il vino possa girare il mondo e portare il Made in Italy un po' ovunque. Grazie a Marco Tebaldi di Free Wine. Ora passiamo a un produttore importante della Valpolicella, Giuseppe Trabucchi. Buongiorno Trabucchi. Buongiorno Paolini. Lei cosa ne pensa di questa nuova, diciamo, questo nuovo parto dell'Unione Europea? Io penso che sia un fatto culturale importantissimo per i produttori e anche per il mercato. Cioè è un avvicinamento del consumatore alla natura, a capire appunto il vino buono, quel vino che porta il territorio con sé. Quindi io, è vero che, diciamo, è debole questo regolamento, però è un fatto innovativo e da qui si parte per cercare appunto la salute nel cibo, ogni cibo, compreso appunto il vino, perché fa bene all'uomo e fa bene quindi alla vita, e che da qui tanti problemi in meno ci sarebbero se nell'alimentare ci fosse una cultura molto forte per il biologico. Noi siamo natura e dobbiamo nutrirci con i prodotti della natura, questa è una regola, quindi io veramente sono contentissimo di questo. Bene, rimanga con noi, sentiamo Claudia da Treviso, una radioascoltatrice. Buongiorno Claudia. Buongiorno a lei, signor Paolini, la ringrazio per questa bellissima trasmissione, mi piace tanto. Bene, dica. Allora, mi scusi, io sono d'accordo con il signor Tebaldi, sono appunto una bevitrice di vino, mi piace tanto, lo conosco da poco, lo sto imparando a conoscere adesso, perché appunto mi dichiaravo astemia, non c'è niente di più sbagliato perché il vino è veramente buono. E mi affido a cantine che conosco, perché io sono suscettibile ai solfiti dei vini e mi è successo di bere vini che non conosco, che mi hanno creato proprio mal di testa, evidentemente per eccessivo uso di solfiti, e io adesso bevo vini che conosco. Bene, grazie a Claudio da Treviso. Ricordo il numero verde 800 24 00 24. Volevo leggere un sms che dice: ma perché non si indicano il livello dei solfiti in etichetta? Mi chiede un radioascoltatore, Giuseppe Trabucchi, cosa ne pensa? Ma perché forse anche questo potrebbe essere un risultato che dobbiamo raggiungere: più trasparenza c'è nell'etichetta, più il consumatore è tutelato. Basta però che questo non crei ulteriore confusione, di difficoltà di interpretazione, quindi non si può caricare il consumatore di oneri di lettura, di interpretazione. La cosa importante è che sia concettualizzato, però anche i parametri sono importanti, e questo è il progresso verso cui andremo sempre di più. La resistenza a rendere l'etichetta trasparente è delle grandi imprese, delle grosse industrie, quelle che appunto hanno in parte, vogliamo dire talvolta purtroppo, avvelenato il mercato. Quindi bene la trasparenza, ma che sia una trasparenza chiara, percepibile, ecco, questo è il punto, che sia una informazione che aiuta. Grazie, prego. No, No, volevo anche dire una cosa, attenzione nella ricerca dell'eliminazione giusta, della riduzione assoluta della solforosa, però che non entrino nel mercato degli strumenti che azzerino la originaria biologicità del vino, cioè voglio dire, ho sentito parlare di strumenti che in qualche modo rendono asettico questo vino, non con appunto con la chimica, ma con altri interventi, questi sono pericolosissimi. Il vino, se è vino del territorio, deve portarsi dietro tutte le sue caratteristiche, i suoi lieviti eccetera, quindi la solforosa va abbassata come necessità grazie ad un'altissima qualità della coltivazione, quindi bisogna stare molto attenti. Va bene. Giusta la riduzione, ma senza violenza. Ecco. Grazie a Trabucchi. Ora sentiamo Rosario da Catania, un radioascoltatore. Buongiorno Rosario. Buongiorno dottore Paolini, io sono della Tavuta Montegorna, che lei possibilmente conosce, anzi conosce. E io produco in biologico in vigna, però il mio organismo di controllo mi impedisce di usare sull'etichetta la dicitura vino prodotto da uve biologiche. Qual è il numero del regolamento che lei ha citato all'inizio della trasmissione? Non l'ho citato io, l'ha citato la Cristina Micheloni, coordinatrice dell'AIA, ma io non vedo perché gli debba impedire di scrivere vino ottenuto da uve biologiche se lei è in regola con diciamo tutto quello che prevede il regolamento. Quindi Difatti il mio organismo ogni anno mi certifica che io produco uve biologiche, però io ho avuto una discussione con il mio organismo, dice no, lei non lo faccia perché deve completare tutta la filiera fino in cantina, altrimenti rischia di essere denunciato e così via. Io francamente, caro Rosario, se la deve vedere con il suo organo di certificazione, sicuramente deve vedere quali sono i punti controversi, non è che noi gliele possiamo risolvere così via radio. Comunque si rivolga appunto al suo ente di certificazione. Bene, abbiamo con noi il professor Scienza, che come dice il nome stesso comunque è veramente un pozzo di scienza. Buongiorno professore. Buongiorno Davide. Allora, cosa ne pensi di questo regolamento per ora, perché ancora sì, è già un regolamento dell'Unione Europea sul vino biologico. Era giusto dare una definizione al vino biologico per poterlo scrivere in etichetta, oppure diciamo anche questa volta non si è andato per la strada migliore? Ma se noi fissiamo la nostra attenzione solamente sui livelli di solforosa, che sono stati direi il sistema sul quale si è perso molto tempo a livello comunitario, direi che si è fatto molto poco, perché è una tendenza ormai in atto da moltissimi produttori quella di ridurre la solforosa nei loro vini, le condizioni igieniche delle cantine, le tecniche di vinificazione ormai consentono veramente di produrre degli ottimi vini con livelli bassissimi di solforosa, e a questo punto direi non c'è più una grande differenza se tra questi vini e quelli biologici, se tutta la differenza viene fatta nella solforosa. Io penso che il problema sia veramente quello di definire in modo molto più preciso quali altre sostanze possono o non possono essere utilizzate per fare questi vini, e su questo c'è veramente ancora molta confusione, nel senso che bisognerebbe indicare veramente quali additivi, quali uvanti devono essere, non possono essere usati, non so, l'uso dei trucioli, l'uso per esempio anche di sostanze che sono innocue per la salute, ma che dovrebbero non essere utilizzate nei vini biologici, come non so, la goma arabica, ecco, come stabilizzante dei tartrati. E poi c'è un aspetto veramente sul quale bisognerebbe che l'Italia e i paesi mediterranei facessero una grande pressione. Nei vini biologici, nei paesi come la Francia o la Germania, è consentito lo zuccheraggio o l'uso dell'MCR. Ora, mi sembra veramente una contraddizione dei termini, quella di utilizzare mostri e prodotti che vengono al di fuori della zona di produzione o addirittura da piante diverse come la barbabietola. Allora, il biologico è un vino che viene ottenuto integralmente con materie prime prodotte in un vigneto in un certo modo, altrimenti non ha senso definirlo tale, questa origine. come sia veramente un'origine autentica di quel vino. Beh, Attilio, rimani con noi. Ora sì. Sentiamo Carlo da Genova, buongiorno, un radioascoltatore. Pronto, buongiorno. Sì. Ascoltavo sì con molto interesse la discussione di stamattina sui solfiti, no? Mi è venuta così, sentendo mentre stavate parlando voi, un'idea che probabilmente non è applicabile, però quantomeno tanto sapere la vostra opinione. Non è possibile tipo poter produrre dei vini mantenendo, che ne so, l'etichetta Only for Italy, per dire, e quindi dedicarli quindi al mercato italiano, così da non poter, da evitare di metterci dei conservanti, solfiti eccetera? Ma sa, Only for Italy è un'altra etichetta ancora, secondo me non si farebbe altro che creare ancora più confusione, mentre un radioascoltatore dice: ma perché non indicare gli ingredienti in etichetta a tutti? Ma sentiamo cosa ne pensa Giampaolo Paglia di Poggio Argentiera, un produttore che è biologico se non erro. Buongiorno Paglia. Sì, buongiorno a tutti. Ma io sono d'accordo con quello che diceva Scienza, credo che poi si stia dedicando un'attenzione particolare ai solfiti, perché è una cosa che la gente colpisce molto. Ma io credo che il punto sia più che altro quello di distinguere vini che vengono prodotti con l'utilizzo di pochissima tecnologia, un minimo di tecnologia, con pochissimi additivi, e vini che vengono prodotti con uso di tecnologia intensa, spinta, e con moltissimi additivi. Sono due vini completamente diversi, che però oggi possono essere chiamati vino allo stesso modo, e questo il consumatore probabilmente non lo sa. Il consumatore tende a pensare che il vino sia prodotto esclusivamente di uva e basta, e poi io qui davanti a me gli additivi ammessi dall'Organizzazione della Vita del Vino, quindi l'organismo internazionale di riferimento, e sono quasi 90. Allora dovremo forse pensare a come fare per distinguere questi due prodotti di fronte al consumatore. Questa è la cosa più importante. Quindi sono 90, e pensi un po', se uno dovesse fare un'etichetta come ci chiede il nostro radioascoltatore, secondo me porterebbe via tutta la bottiglia. Comunque Paglia, rimanga con noi. Sentiamo Alfredo dall'Aquila, un radioascoltatore. Buongiorno Alfredo. Buongiorno. No, io in merito a tutta la discussione, sia sui lieviti che sui solfiti, io credo che sia più che altro una questione di visione. Perché ci sono degli ottimi vini che sono trattati con lieviti e con solfiti, e degli ottimi vini, ma non tanto biologici, parlo più che altro di biodinamici, no? Dove proprio l'apporto, diciamo, delle proprietà organolettiche naturale è molto più sentito. Secondo me dipende proprio da che tipo di vino si desidera, no? Cioè un po' come viene a fare un paragone, diciamo, tra virgolette, sessuale, cioè un conto se uno vuole la velina o se vuole una bella donna. E anche con l'aggiunta di solfiti, una bella donna è bella anche a 65 anni, insomma dipende poi dalla qualità dell'uva, no? Certo, certo. Ci sono delle uve con molta qualità, come il metodo anche di coltivazione, come di fermentazione. Io sono abruzzese, conosco dei Montepulciani, ci sono delle cantine che fanno dei Montepulciani d'OCG senza aggiunta di lieviti, e dei Montepulciani un po' più sofisticati, un po' più amabili, meno forti, meno violenti, come posso dire, e dipende, ci sono persone che preferiscono quelli più sofisticati. Beh. E persone che vogliono cercare proprio il grappolo dell'uva nella bottiglia, e che magari preferiscono quelli un po' meno trattati. Bene, penso che sia una questione di visione. Grazie Alfredo. Io volevo tornare un po' appunto su questo discorso dei solfiti. Io credo che il grande interesse dei solfiti sia dato perché molti pensano, e magari anche così, che mal di testa dopo aver bevuto un certo vino dipendono appunto dall'uso o meno dei solfiti, e credo che anche questo sia stato un argomento che è stato abbastanza cavalcato proprio in questa direzione. Però voglio tornare ad Attilio Scienza, perché gli voglio chiedere questo: era anche balenata così, diciamo, l'opinione che questo pateracchio comunitario appunto di riduzione, ma non molto alta, della soglia dell'uso dei solfiti per il vino rosso, lo ricordo, 100 mg per litro è stata portata, per il rosso a 150 per i vini biologici, e sia derivata anche da una battaglia tra paesi del nord e, diciamo, paesi mediterranei. Ecco, Attilio, tu cosa ne pensi in proposito? Ma sì, è vero, perché nei paesi del continentali l'uva non è mai, cioè non è sempre perfetta, e quindi ha bisogno di un intervento di protezione all'ossidazione da parte della fruforosa maggiore che nei paesi mediterranei. Questo è stato uno dei momenti, uno dei punti di disaccordo, ma non è solo quello. La fruforosa, è dimostrato, non produce gli effetti a cui viene attribuita la cefalea, quelle cose lì. Sono altre sostanze che sono contenute nell'uva, sono delle amine biogene che hanno un effetto vasodilatatore, che provengono in genere da fermentazioni secondarie da parte dei batteri. Ci sono però alcuni casi importanti di allergia ai solfiti. Ci sono delle persone che sono allergiche ai solfiti. E quello dell'allergia è un altro tema che andrebbe valutato, perché la comunità europea vorrebbe che venisse inserita in etichetta una lista di sostanze che sono presenti in quel vino che possono avere effetti allergici, allergogeni. Certo. Allora, questo è un altro aspetto importante, cioè evitare che l'etichetta di un vino diventi una specie di bugiardino di un prodotto farmaceutico con tutta una lista di sigle che rappresentano la presenza di quella sostanza o di quell'altra che può avere effetto allergogeno su alcune persone sensibili ad alcune proteine. Naturalmente la produzione biologica non garantisce l'assenza di queste sostanze, assolutamente, quindi questo è importante, va detto. Molto spesso, anzi, questi vini che sono prodotti naturalmente, come si dice, in modo naturale, anche se la parola naturale è una parola, sì, direi, usata a sproposito. Naturale è qualcosa che dove l'uomo non c'entra. Naturale è una pianta che vive in un bosco, non so, naturale è qualcosa che l'uomo non ha selezionato. Il giorno in cui l'uomo prende una pianta naturale in un ambiente naturale e la porta a coltivazione, quella pianta non è più naturale, perché da sola non potrebbe sopravvivere a tutta una serie di minacce che sono presenti in una specie coltivata. Quindi, però, il problema è un problema molto ampio e ha anche delle radici filosofiche, probabilmente al di là di quelle tecniche agronomico-enologiche. La cosa importante è che noi tutti dobbiamo fare uno sforzo a tutti i livelli, la ricerca, la comunicazione di produttori, per lasciare al consumatore un messaggio che il vino è una bevanda sana, forse la più sana delle bevande, ma dobbiamo fare in modo che questa bevanda sia veramente sana, ma neanche, direi così, esasperare, così colpevolizzare alcune sostanze che sono forse insite nella bevanda e che naturalmente non possono essere tolte completamente. Bisogna pensare che una bevanda che viene prodotta da sostanze che fermentano, che sono materie naturali nel senso della composizione, hanno poi delle conseguenze queste operazioni sulla presenza di alcune sostanze che adesso noi siamo tutti un po' fissati, no? sull'alimentazione, su alcuni prodotti. Fino a poco tempo fa non si conosceva neanche che esistesse. Adesso le tecniche analitiche sofisticatissime tirano fuori delle particelle per bilione che probabilmente forse farebbero male a dosi molto alte, ma a quella concentrazione non fanno niente, insomma. Bene, no? grazie a Tiglio, perché veramente ci hai dato così uno spaccato veramente molto interessante. Una domanda flash a Giampaolo Paglia: c'è un radioascoltatore che mi dice, ma la differenza non dovrebbe stare sul vino biologico e non sull'uso o meno degli antiparassitari e criptogamici? Ma sicuramente sì, ma non è solo quello, diciamo che l'agricoltura biologica in realtà vieta l'uso di prodotti di sintesi, però non vieta l'uso di prodotti antiparassitari. Infatti si usa solfiti, si usa rame è anche un metallo pesante che è dannoso per l'ambiente. Quindi io credo che la distinzione vera sia nel rendere la possibilità al consumatore di poter scegliere quali sono i vini che vengono prodotti con un impatto ambientale, con un impatto, diciamo, di lavorazione basso, e quelli che sono prodotti con tecnologia industriale. Questo deve essere l'obiettivo della anche della legislazione, io penso, superando forse anche la dicotomia tra biologico e convenzionale. Io credo che sia quella importante, ma credo che si debba e si possa parlare anche di altre cose. Non si possono comparare vini che sono fatti con relativamente pochissima tecnologia e pochissimi additivi, e vini che sono fatti con tecnologie estreme e gran numero di additivi. Questo va differenziato e va trovato il modo per farlo. Bene, sentiamo Federico Orsi. Federico Orsi fa parte del consorzio dei vignaioli biodinamici ed è lui stesso un produttore. Allora volevo chiedere ad Orsi, Orsi, si parla di biologico, diciamo regolamento sul biologico, e non si parla mai di biodinamico, come mai? Buongiorno Davide, buongiorno. Sì, vabbè, la biodinamica obiettivamente non è stata considerata, ma secondo me perché diciamo la partita è diversa ed è stata, sono contento che è stata ben espressa diciamo da tutti che hanno intervenuto alla tua trasmissione, che è proprio il fatto, cioè, che sono due, parliamo di due bevande diverse. Il discorso diciamo del vino, così come tutti lo definiamo, in realtà è molto più complesso, cioè il consumatore non sa esattamente cosa c'è dentro nel vino. Quindi, volendo essere volutamente esagerato e provocatorio, ma peccato per cercare di mettere insomma al consumatore l'idea di approfondire la questione, ci dovrebbe essere da una parte il vino, che tu hai definito a suo tempo cosiddetto naturale oppure di territorio, e dall'altra parte una bevanda base di vino. Dico bevanda di base di vino in maniera esagerata, perché ci sono tantissimi ingredienti, se ne è parlato di 90, ma cioè, si può fare di tutto dentro il vino: acidificare, desacidificare, usare carbone, usare gomma aradica, PVPP, ferrocianuro, fare trattamenti termici, microfiltrazione, cioè di tutto praticamente. E quindi questo, non sto dicendo che questo faccia male, e quindi quello che diceva il professor Scienza, il discorso diciamo di passare il veicolo, di veicolare il discorso che il vino come bevanda sana è assolutamente giusto, però quantomeno andrà ad annacquare, ad omologare quel risultato che io penso di aver ottenuto in vigna. Quindi, secondo me, bisognerebbe avere un'etichetta di legge come per tutti gli altri alimenti, e anche il livello di solforosa scritto in etichetta. Questo tutto per dire che, secondo noi, questo approccio di affrontare una bevanda a base di vino, adesso sempre se volendo essere provocatorio, non ha niente a che fare con la biodinamica. Quindi, una vinificazione che rispetti il territorio, l'annate, penso che sia diciamo un prodotto diverso rispetto ai vini convenzionali che conosciamo. Grazie Orsi. Bene, abbiamo con noi un critico importante della stampa di Torino, abbiamo Paolo Massobrio. Paolo, non pensi che accentrare tutto così l'attenzione sui solfiti e non sugli altri 89 ingredienti che vengono usati sia nel vino, cioè che sono liberi, sia un po' fuorviare un po' l'attenzione su tutto quello che in fondo è il vino oggi? Sono assolutamente d'accordo. Il problema è che questi provvedimenti, che sono frutto di compromessi, mortificano ormai un movimento a livello internazionale che vuole pulizia. Io ho sentito in trasmissione dei magnifici produttori, molti sono giovani, che hanno dato la vita, no, per fare il vino, ma sì, chiamiamolo così, in maniera naturale. Allora, cosa succede con un provvedimento che poi tutto sommato un po' ambiguo lo è? Succede che dovremo stare attenti ancora una volta ai furbi e dovremo guardare in faccia quelli che con orgoglio fanno un vino biologico, naturale o biodinamico. E quindi non cambia nulla dal punto di vista dell'attenzione del consumatore. Guardare in faccia, tra l'altro, quei magnifici produttori che oggi hai fatto intervenire in trasmissione, che conosco tutti e che sono degli eroi. Bene, rimani con noi, sentiamo Stefano da Pistoia, un radioascoltatore. Buongiorno Stefano. Ciao Osvaldo, complimenti per la trasmissione. No, non sono Osvaldo. La domanda mia era se un vino non si giudica biologico solo per quello che viene fatto in cantina, ma nella fase di maturazione dell'uva, se viene trattato con rame e zolfo o diversamente con prodotti sistemici che quindi entrano e proteggono maggiormente la vigna, ma non so se sono più biologici. Okay. Con questi prodotti, ecco. Sentiamo Silvano da Brescia, un altro radioascoltatore. Non sono Osvaldo, lo ripeto per Silvano. Quando... Pronto, Silvano, prego. Sì, buongiorno. No, volevo solo tornare in vigna un attimo e ricordare due cose. Uno, che sono un produttore biologico. Una vigna biologica è una vigna che non ha mai visto i sistemici e non ha mai visto diserbanti, quindi è un aspetto importante. Due, che è una coltivazione biodinamica e necessariamente biologica. Grazie. Bene, grazie. Ma Sobri, un ultimo flash veramente velocissimo. Tu pensi che dopo diciamo questo provvedimento sul biologico sia necessario uno sul biodinamico? Credo di sì, perché perché c'è un'esigenza di chiarezza, assolutamente di chiarezza. Il problema però, Davide, l'abbiamo visto con questo provvedimento, cioè ogni volta che c'è un provvedimento si crea confusione. Sembra un passo indietro, sembra che ci sia e sicuramente c'è qualche forza industriale. Io ho letto anche sul tuo blog è intervenuto Maurizio Gidi dicendo ma perché queste barricate per non abbassare a livelli no come si voleva la solforosa, probabilmente perché l'industriale del nord vuole loro. Scusa Paolo, ma sta andando e venendo la linea, quindi ti saluto e ti ringrazio, grazie. Bene, e ora devo ricordare che sabato prossimo non saremo qui in studio, ma saremo nella sede della BIT, dove io tratterò un argomento così, se vogliamo, abbastanza discutibile. È cresciuta la ristorazione d'albergo in questi anni e non solo. Un ristorante d'albergo attira ancora di più il turista, quindi porremo questo interrogativo nella prossima trasmissione appunto dalla BIT. Io vi do appuntamento domani con il riposo del guerriero alle 11.15, ogni giorno con la pillola alle 11.05 e alle 23.05. Grazie, mi dispiace che alcuni radioascoltatori siano rimasti così ancora all'apparecchio, ma il tempo è finito, anche perché diciamo che è stato abbastanza interessante quello che abbiamo ascoltato. Quindi un caro saluto a tutti dal vostro gastronauta.